La storia e la memoria di Dino Pesole e Alessandra Scaglioni. Buona serata e ben ritrovati all'appuntamento con La storia e la memoria. L'approfondimento di Dino Pesole è dedicato al premio Nobel per la pace 2012 conferito all'Unione Europea. L'onorificenza premia il contributo dato per oltre 60 anni dall'Unione alla promozione della pace e riconciliazione, della democrazia e dei diritti umani. Ospite ai nostri microfoni Pier Virgilio D'Astoli, presidente del Movimento Europeo. Radio 24, in collaborazione con History Channel, in seguito vi farà ascoltare un radiodocumentario dedicato alle donne di Adolf Hitler. Ma ora la parola va a Dino Pesole. Il premio Nobel per la pace all'Unione Europea è stato accolto con un coro di unanimi consensi dai vertici delle istituzioni comunitarie. Infatti non vi è dubbio che la scelta rivesta un valore fortemente simbolico. Da 60 anni, un continente prima dilaniato da ben due devastanti guerre mondiali, vive in pace seppur tra mille contraddizioni. E allora vale la pena di ripercorrere brevemente i primi passi di questa difficile e ancora per molti versi incompiuta avventura europea. La lunga marcia verso la nuova Europa unita comincia di fatto il 9 maggio 1950. Siamo in piena guerra fredda. Il mondo, prostrato dalla Seconda Guerra Mondiale, è diviso in due blocchi contrapposti. Si rischia di scivolare in un altro conflitto. Diffusa è la convinzione di dover in qualche modo accelerare il riarmo della Germania per arginare l'espansionismo sovietico ad est. Il ministro degli esteri francese, Robert Schuman, lancia a sorpresa la proposta di creare una forma di solida cooperazione tra i paesi europei. È quella che è passata alla storia come la dichiarazione Schuman, il primo vero passo verso l'integrazione europea. «Abbiamo avuto la guerra», osservava Schuman. «L'Europa non si farà ad un colpo, né all'interno di una costruzione complessiva. Essa si farà attraverso realizzazioni concrete», creando dapprima una solidarietà di fatto. Viene proposta una istituzione europea sovranazionale cui affidare la gestione delle materie prime, che all'epoca erano il presupposto di qualsiasi potenza militare, il carbone e l'acciaio. Nasce nel 1951 la CECA, la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio. Sei i paesi firmatari del trattato: Germania, Belgio, Francia, Italia, Lussemburgo e Paesi Bassi. Si cominciano così a porre le premesse per realizzare quell'idea d'Europa che prima di Benedetto Croce era stata coltivata da Mazzini e Cattaneo e che Altiero Spinelli ed Ernesto Rossi, confinati politici dal fascismo nell'isola di Ventotene, avevano espresso con grande lungimiranza nel manifesto di Ventotene del 1941. Il problema che in primo luogo va risolto è la definitiva abolizione della divisione dell'Europa in stati nazionali sovrani. Il crollo della maggior parte degli stati del continente sotto il rullo compressore tedesco ha già accomunato la sorte dei popoli europei, che o tutti insieme soggiaceranno al dominio hitleriano, o tutti insieme entreranno, con la caduta di questo, in una crisi rivoluzionaria in cui non si ritroveranno irrigiditi e distinti in solide strutture statali. Gli spiriti sono già ora molto meglio disposti che in passato a una riorganizzazione federale dell'Europa. Tutti gli uomini ragionevoli riconoscono ormai che non si può mantenere un equilibrio di stati europei indipendenti con la convivenza della Germania militarista a parità di condizioni con gli altri paesi, né si può spezzettare la Germania e tenerle il piede sul collo una volta che sia vinta. Alla prova, è apparso evidente che nessun paese d'Europa può restarsene da parte, mentre gli altri si battono. A nulla valendo le dichiarazioni di neutralità e di patti di non aggressione. Un'Europa libera e unita è premessa necessaria del potenziamento della civiltà moderna, di cui l'era totalitaria rappresenta un arresto. Il secondo mattone della costruzione dell'Europa viene posto a Roma il 25 marzo del 1957 con la firma da parte dei sei stati fondatori dei trattati che istituiscono la Comunità Economica Europea e la Comunità Europea dell'Energia Atomica. Il suono della campana del Campidoglio nel salone degli Orazi e Curiazi accompagna la firma solenne dei 12 rappresentanti dei sei paesi fondatori: Italia, Francia, Francia, Germania, Belgio, Paesi Bassi, Lussemburgo. L'Italia è rappresentata dal Presidente del Consiglio, Antonio Segni, e dal Ministro degli Esteri, Gaetano Martino. Da allora l'Unione Europea ha cambiato volto, ora sono ben 27 i paesi che vi fanno parte, l'Eurozona è tuttora alle prese con la crisi esplosa oltre 2 anni fa, passi lenti, stop and go, con una constatazione prima di tutto: è giunto il tempo di dotare l'Unione Europea di un vero governo comune dell'economia, è giunto il tempo di fare il passo decisivo verso una vera unione politica. Abbiamo in linea Pier Virgilio D'Astoli, che è presidente del Movimento Europeo Europeista di lunga data, è stato, lo ricordo, direttore della rappresentanza in Italia della Commissione Europea, per lunghi anni assistente di Altiero Spinelli. Buonasera, grazie per aver accettato il nostro invito. Buonasera a tutti. Allora, noi abbiamo colto l'occasione del riconoscimento all'Unione Europea per ripercorrere brevemente un po' le tappe principali che hanno portato a questa avventura, chiamiamola così, come l'ha definita recentemente anche il Presidente del Consiglio, un'avventura che per certi versi è ancora incompiuta, ma che tuttavia ha consentito a questo continente di vivere in pace per 60 anni. Allora, che bilancio si può trarre di questi 60 anni di Unione Europea? Beh, intanto bisogna leggere attentamente la motivazione che è stata data dalla giuria di Oslo, che è una motivazione molto articolata e che fa giustamente riferimento al fatto che l'Unione Europea in questi 60 anni ha garantito in qualche modo la pace sul continente e ha fatto anche riferimento al ruolo di stabilità che noi stiamo avendo anche nei confronti per esempio dei Balcani e di altri paesi vicini. Quindi questo è importante ricordarlo, soprattutto ai giovani che vivono in un'Europa di pace ma che non si rendono conto che questa pace è dovuta anche al fatto che noi abbiamo rinunciato al principio di Filippo il Bello, Rex est imperator in regno suo, cioè che ognuno si difende la propria sovranità nazionale, e che invece abbiamo accettato il principio di una sovranità condivisa, e questo è importante perché è anche questa la garanzia della pace, diciamo. A proposito della consegna del premio, l'idea appunto è quella che ci possa essere una delegazione composta dal Presidente Permanente dell'Unione, che è Herman Van Rompuy, dal Presidente Barroso che guida la Commissione e da Schulz che guida il Parlamento Europeo. Ma a Bruxelles la settimana scorsa si faceva anche con insistenza il suo nome. È possibile che anche lei possa andare a ritirare il premio? Beh, diciamo che Jeremy Rifkin, che ha scritto qualche anno fa un bel libro che si intitola Il Sogno Europeo, ha detto, dice, a Oslo ci deve andare qualcuno che rappresenta il sogno europeo. E ha detto il sogno europeo è stato rappresentato per tanti anni da Spinelli e dal manifesto di Ventotene. Poiché Spinelli non ci può andare, ha detto in Europa c'è l'erede di Spinelli che è Pier Virgilio D'Astoli, mandiamoci lui, ha raccolto più di 6.000 adesioni in tutta Europa di cittadini che hanno in qualche modo fatto riferimento al sogno europeo. Non andrò certamente a Oslo perché mi pare che ha già la delegazione molto affollata, però quest'idea del sogno, per esempio, c'è stato qualcuno, la commissaria Malmström, che ha detto mandiamoci 27 giovani Erasmus, anche questa mi sembrava una bella idea. L'idea invece che ci sia una delegazione di capi di Stato e Governo che rappresenta in qualche modo l'Europa della crisi, l'Europa fra l'altro che non è stata capace di dare una soluzione alla crisi, suscita qualche perplessità. E allora è per questa ragione che ci sono molte organizzazioni che hanno lanciato l'idea di organizzare il 9 dicembre, cioè il giorno prima, una sorta di flash mob, cioè di piccole iniziative in varie città significative d'Europa, Auschwitz, Guernica, Sarajevo, Maastricht, Ventotene, insomma mobilitarci per dire noi vogliamo ancora il sogno europeo. A proposito di sogno europeo, che era quello coltivato da Altiero Spinelli e dal manifesto di Ventotene, è un sogno che in parte possiamo dire si è anche realizzato, perché obiettivamente avere un'Unione Europea laddove nel corso del Novecento ci si era dilaniati in due grandi guerre è già un grande risultato, eppure questa costruzione è ancora tutta un edificio ancora incompiuto, manca ancora la gamba fondamentale dell'unione politica che è decisiva in questa crisi, lo abbiamo visto. Ma quali possono essere i passaggi prossimi per realizzare il sogno di Spinelli e anche il suo, naturalmente? Beh, manca la gamba della democrazia, cioè tutto quello che è successo in questi 5 anni ha messo in luce il fatto che l'Europa non è sufficientemente democratica. Per questa ragione che ci sono molti che dicono la crisi è talmente forte che ci vuole un atto di volontà politica grande, che è quello per esempio di dire, diciamo ai cittadini europei di eleggere un'assemblea costituente. Bisogna fare quello che dice Habermas, bisogna creare uno spazio pubblico europeo perché si sviluppi un grande dibattito. E allora questo spazio pubblico può essere creato per esempio attraverso una campagna elettorale per le elezioni dell'Assemblea Costituente, oppure per dare al Parlamento che sarà eletto nel 2014 questo potere costituente. Ci vuole questo spazio pubblico europeo all'interno del quale si formi quella che ancora Habermas dice la democrazia sovranazionale, ed è lì che i cittadini possono mobilitarsi, attraverso anche un'altra gamba, che è quella che ha detto più volte il presidente Napolitano, che è quella dell'europeizzazione della politica. Io dico sempre che il ruolo dei partiti, della buona politica, è quella di battersi per conquistare un potere. Oggi il potere europeo non esiste, se i partiti vogliono avere una ragione di essere, debbono battersi per creare un potere europeo che non c'è, altrimenti i partiti non hanno nessuna ragione di essere. Allora l'invito del presidente Napolitano dell'europeizzazione della politica va anche in questa direzione. Grazie, grazie a Pier Virgilio D'Astoli e buona serata, grazie per essere stato con noi. Grazie. Bentornati alla seconda parte de La storia e la memoria. Radio 24, in collaborazione con History Channel, vi presenta un approfondimento dedicato alle figure femminili che subirono il fascino del dittatore nazista Adolf Hitler e al mistero della sua presunta discendenza. Vi ricordiamo che la versione integrale del documentario andrà in onda lunedì 29 ottobre alle 21 su History Channel. Una giovane donna, Eva Braun, la ragazza di Adolf Hitler. Lui è più vecchio di 23 anni e lei è un segreto di Stato. La loro relazione non dovrà mai essere resa pubblica. David Cesarani, storico. Le donne tedesche adoravano Hitler. Proiettavano le proprie fantasie su di lui. E quella dinamica non avrebbe funzionato se si fosse saputo che Hitler aveva una ragazza, un amante o moglie e famiglia. Era molto importante per la macchina propagandistica di Goebbels che Hitler rimanesse celibe. Frank McDonough, storico. La sua immagine, molto studiata, prevedeva che lui fosse sposato con la Germania, che nella sua anima ci fosse soltanto la Germania e non altre distrazioni. Soltanto dopo essersi sposati e tolti la vita nel bunker di Berlino, Eva Braun diventa famosa. È solo una delle numerose ragazze che tentano il suicidio dopo aver subito il fascino di Hitler. Maria Reiter ha 16 anni. Suo cognato la salva dal suicidio dopo essere stata respinta da Hitler. Geli Raubal è la nipote di Hitler, ha solo 23 anni quando si uccide nell'appartamento dello zio. Unity Mitford è l'aristocratica inglese infatuata di Hitler che si spara a soli 25 anni. Secondo Hitler, non c'è niente di meglio che plasmare qualcosa di così giovane, una ragazza malleabile come la cera. Guy Walters, storico. Ci sono filmati di donne che urlano e si dimenano di passione per lui. E naturalmente alcune erano il frutto della macchina di propaganda di Goebbels. Ma stando ai diari e alle lettere, sono certo che molte di quelle donne, specialmente le più giovani, avessero una cotta per Hitler. Non solo giovani e malleabili ragazze, ma anche donne mature dell'alta società, come Winifred Wagner, rimangono incantate dal suo fascino e potere politico. Anche la ricca industriale divorziata, Magda Goebbels, è attratta da Hitler, ma deve restare fedele al ministro della propaganda, Joseph Goebbels. Essendo sua moglie, è la first lady del regime nazista. È solo una delle tante donne che subiscono l'attrazione fatale di Hitler. Ma da giovane, nella sua città natale austriaca di Linz, sembra che fosse timido e impacciato con le ragazze. Frank McDonough, storico. Chi lo conosceva a quel tempo, specialmente un certo August Kubitschek, che scrisse alcune memorie, descriveva Hitler come un imbranato con le donne. Non aveva mai avuto una ragazza in gioventù. Non si fa cenno a nessuna ragazza. Finché non adocchia Stephanie, la figlia di un alto ufficiale governativo che non osa avvicinare. Per Hitler era una donna da sogno. Era bionda, alta, irraggiungibile. La vedeva passeggiare nel parco, pare che le scrivesse poesie e addirittura una lettera d'amore, ma senza firmarle. Stefanie attira l'attenzione di molti ammiratori, ma Hitler può solo osservarla passeggiare lungo la via principale con sua madre. A lungo tiene per sé la sua adorazione, finché la figlia dell'ufficiale riceve una lettera misteriosa. Hitler non riesce a entrare all'Accademia di Belle Arti a Vienna. Stefanie sposa qualcun altro. Il corso della storia riprende il suo fatidico percorso. Nell'agosto del 14, una sorta di euforia bellica contagia una generazione di giovani, compreso il 25enne volontario austriaco Adolf Hitler. Si arruola in un reggimento di fanteria di riserva e viene inviato al fronte occidentale. La sua unità subisce perdite devastanti. Come porta ordini, al caporale Hitler vengono risparmiati gli orrori della trincea, ma viene decorato con la croce di ferro per coraggio, che in seguito sfoggerà sulla sua giacca da dittatore. Esiste tuttora il diario del suo reggimento nell'archivio di Stato bavarese. Leggiamo che Hitler è stazionato nella cittadina di Furn, nella Francia del Nord, nella primavera del 1916. Decenni più tardi, una donna francese sostiene di averlo incontrato in quella stessa città. La figlia di un macellaio, Charlotte Lobjoie, racconta che all'epoca aveva 18 anni. Secondo un noto episodio, ha dato alla luce il figlio di Hitler. Un collezionista in Belgio possiede un dipinto, un presunto ritratto di Charlotte Lobjoie. Il ritratto mostra una ragazza di campagna con una generosa scollatura, mentre imbraccia un forcone. È firmato Adolf Hitler, 1916. Gli esperti non sono ancora concordi sull'autenticità del dipinto. Charlotte rimane incinta nel giugno del 17 nella città di Montigny. Secondo il diario di guerra del reggimento di Hitler, anche lui si trova a Montigny nello stesso periodo. Il figlio di Charlotte, Jean-Marie, nasce il 25 marzo del 18. Sostiene che la madre gli ha detto la verità su suo padre solo in punto di morte. La storia suscita scalpore in tutto il mondo negli anni 70, quando Jean-Marie esce allo scoperto con il suo straordinario racconto. È convinto di essere il figlio di Adolf Hitler. Ma non ci sono prove a sostegno della sua clamorosa dichiarazione. Jean-Marie tenta disperatamente di trovare quelle prove, assumendo esperti per confrontare occhi, calligrafia e gruppi sanguigni, ma i risultati sono inconcludenti. Muore nell'85 senza riuscire a dimostrare di essere il figlio di Adolf Hitler. 25 anni dopo la morte di Jean-Marie Loré, il giornalista belga Jean-Paul Mulder riesamina il mistero della discendenza di Hitler. Il fascino di questo mistero sta nell'idea che Hitler abbia avuto figli e che la sua discendenza possa ancora essere viva in Francia o in qualche altro posto del mondo, senza che nessuno ne sappia nulla. È quasi una versione dark del Codice da Vinci. Il giornalista intende stabilire una volta per tutte se Jean-Marie Loré fosse il figlio perduto di Hitler, usando una nuova tecnologia, l'analisi del DNA. Raccoglie campioni di saliva da mozziconi di sigarette ottenuti da lontani parenti di Hitler. Il DNA di quei campioni è confrontato con quello raccolto dalle lettere di Jean-Marie, vecchie di 30 anni. I DNA non coincidono. Chiunque fosse il padre di Jean-Marie, nato da Charlotte Lobjoie nel 17, probabilmente non era l'allora caporale Adolf Hitler. Forse la prova più solida contro la dichiarazione di Jean-Marie arriva dagli ex camerati di Hitler, che secondo loro non è interessato al sesso con ragazze straniere. Frank McDonough, storico. Tutti i suoi camerati lo descrivono come un tipo posato, noioso. Aveva solo 26 anni e lo chiamavano Zio Dolph. Si portava sempre appresso un cagnolino e quando gli dicevano cose tipo «andiamo in un bordello», lui rispondeva «no, no, non guastate il vostro sangue». Era molto contrario all'idea. Dopo il suo servizio nella Prima Guerra Mondiale, Hitler riemerge per combattere un'altra battaglia. Promette di restituire orgoglio e prosperità contro il caos che dilaga dopo l'umiliante sconfitta della Germania. I suoi discorsi infervorati, pieni di retorica nazionalistica e antisemita, toccano le corde di molti tedeschi. Deluse o convinte discepole naziste, le donne di Hitler adorano invano il loro Führer. Come il grande Reich tedesco, il loro amore è destinato a fallire. Avete appena ascoltato il documentario realizzato in collaborazione con History Channel dal titolo Terzo Reich, tutte le donne del Führer, di Guido Knopp, casa di produzione ZF Department of Contemporary History, titolari dei diritti ZF. Vi ricordiamo inoltre che la versione integrale del documentario andrà in onda lunedì 29 ottobre alle 21 su History Channel. Un ringraziamento in redazione a Gloria Guerrera e Anita Panizza. La storia e la memoria vi dà appuntamento a sabato prossimo. Buonanotte.